Mercoledì, terza settimana. Lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Notte, tenebra e nebbia, fuggite, entra la luce. Viene Cristo Signore. Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa. Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore. Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo. A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Prima antifona. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera, e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido, e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore. E darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia, dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita, non pongono te davanti ai loro occhi, ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me, e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia. Seconda antifona. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori. Lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare, chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali, si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto. Fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio. Gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Terza antifona. Acclamate al Signore, nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Ferema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne. Davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate al Signore, nostro Dio. Lettura breve. Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Responsorio breve. Verso la tua parola guida il mio cuore. Verso la tua parola guida il mio cuore. Fammi vivere nella tua via, guida il mio cuore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Verso la tua parola guida il mio cuore. Antifona al Benedictus. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Invocazioni. Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede: custodisci la tua Chiesa, o Signore. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome. Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo Spirito la renda sempre docile alla tua volontà. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Orazione. Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce dello Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a te, che con la tua sapienza ci hai creati e con la tua provvidenza ci guidi.